paga, guarda, io ti lascio fare al tuo lavoro. Facciamo qua, io adesso fra poco mi devo fare un bel bagnone, perché stamattina mi ho fatto la luce, stasera voglio fare il bagno. Proprio stanno spamparanzando mezz'ora in acqua, con la musica accesa, con il ricevitore, qualche cosa per farmi compagnia. Mamma mia, Erasmus, io lo conosco. C'ho l'Athlon 2006. Sì, ma devo riformattarlo perché mia figlia ci ha scaricato mille cose, ci deve essere tanta di quella porcheria. Che mia figlia canta, ci mette canzoni, un po' di tutto, ma ci sarà la mondetta. Voglio riformattare. Era una scheggia proprio. Visto, un attimo, stavo facendo un PSO. Ciao, sa, ci sentiamo, dai, buon lavoro, allora. Stai in ascolto, speriamo che sia piacevole per te. Ciao, ragazza, siamo qua quando vuoi, entra. Avanti, o fa il che? Salutone, dai, 100%, se mi cuffi, dai. E se non ti passiamo di appunto, dai, salutone al 100. Ciao, ti saluta, Falchetto, eh. Autore Conrad. E Conrad? E che? Lui è Sandro Conrad. Saluto a tutti là. Ma non si chiama Conan? No, si ebreche. Si chiama Conan, non Conrad. Mi sono venuto, si vuole il gatto. Allora io sapevo che era il cugino di Sisa. C'era il break, a far entrare il break, se hai capito? Ma quasi break! Eia, buonasera! C'è Daniele questo qua, Daniele! Eia già, vabbè sono piccolo e nero qua, ma... E dove te la trovi Daniele? Ehi, macchina sono già! Ma Girella, Santiago Novo è qua, sì, dai! Girella, sì! Mi, sto sentendo la nonna, e sono sotto casa, dai! Ah, KK, ho copiato, vabbè, no, non ti sta dando bene, dai, Santiago Nove va bene la macchina. Pensavo fossi a casa, perché sta arrivando, non come al solito, di radio, ecco. Poi col microfono l'avevo messo a posto. Bravo, bravo, io vi saluto tutti, ma la maglia mia Twitter, la facciamo qua. Allora, forza. E noi la facciamo dopo andiamo al ristorante a mangiare. Sì, già. Sto scherzando, non è vero che fa nel ristorante, manco Uva, ricatto, me ne passo. Avanti, Falchito. Ciao Luca, buona frittellata, Ciao Cucca. Ciao, ciao ragazzi, tu ne mani troppo per i giuri. No, no, non sono mangioni, ho di due, tre. No, non mi... Poi sono stamattina, voi altri. Quella mangione, no, no. Poche. Tanti da assaggiare, dai. Ti riporta anche il cane fuori un po'. Sta facendo i dispetti, noia. Quando ti trovo te lo dico, ma i dispetti fa. Fa sempre buscando, già, sempre. Perché ho fatto apposta. Allora. La bimbi in terra ti farà come faceva il mio, se non era abituato lo portavo in giro, se non lo portavo appresso, dormevamo a terra, trovavamo le sedie morsicate, la bimbi in terra, poi come ci vedeva si metteva la coda in mezzo alle gambe e si andava nella cuccia subito a imboscarsi, per paura di buscare, perché capiva che faceva cose che non doveva fare, però tanto le faceva. No, la parte è quello, no. Altre cose, dai. Dai, te lo dico quando ci troviamo, ricordalo. KK, vabbè, lo so, tante volte non apprendono quello che dici. Il mio, a me mi temeva il urlare, lo facevo così col dito, si scappava, poi mi abbaiava. Quando era lontano mi abbaiava, era troppo forte. Beh, comunque, ho dovuto dare il mio perché quando è nata Manuela mia moglie l'ha trovato dentro la culla e stava leccando la faccia e non ha più voluto. Ciao, di chi è rimasto in questo canale o chi vuole entrare è sempre aperto a tutti. Ehi, ah già, sono sempre. Ma è partita, sì, o sei già partito? Ma si può. È partito, sono a Carbonati adesso. Capo, avanti, salve. Ehi, ciao Danielino, ciao Forchetto e ciao Gianni. Buon corretto Lucariello, mamma del rifugio, va? Sono già a posto il microfono, dai, sto tutto a cappa. Ehi, è meglio così, dai. E doveva essere una cazzata di massa, sicuramente. Non potevo essere altro, dai, perché il microfono non mi rodisce bene. Cava, era la massa, stava rompendo le scatole. E ho fatto una saldatura e l'ho sistemato. Vagava. Io. Dimmi qualche. Beh, dove andava quella questione? E già Bassino esce, ma già lo sentiamo, va. A quanto sta, avete se d'accordo con questo proprietario, il suo decimo piano? Ce l'ho toccato in elicottero. Posso dire, ma almeno se sente un po', va. Sì, già si sente, almeno non brucia il baracchino, va. Perché abbiamo provato solo col piede appoggiato, con la mano, ma riuscì a bruciare tutto. Gabarocci, e tu come stai? Un po' meglio, va. Ho fatto un nuovo fare un bisogno un po' pranzo e invece sono rimasto un po' di ore, va. Mi sono svegliato poco fa. No, va bene, dai, sono tanto a riposare, va. Ma è frutto, è sempre il giro di mannaggia, si fa comuzzo. No, adesso sono fresco come una rosa. Sono sto prendendo a farmi la doccia, mamma mia. Perché? Perché sì, perché c'è freddo fuori, ma non esco in biancareggio. Ho bisogno solo in moto, va. Io sono in macchina, faccio tutta che riscaldare, c'è in macchina, già di biancareggi. No, io già me la faccio, vi faccio un bel bagno, mi voglio mettere proprio a mollo, come i popottani. Prendi la radio, devo rilasciarlo, speriamo che non sia reso che mica, devo andare in bagno. Ehi, c'è io su quasi temi che esce ora. C'è poco lunga, sì, furia. Le donne sono così. Le donne ci mettono un bel avarsi. Ma non so che la c'è in bagno. Il bagno era di zinco. Si passano creme, cremine, si rilassano le gambe, tutto quanto, e un po' tutto fanno, quindi si pone in un bel... Deve andare a un buffet del battesimo di un nipotino, no, di un cuginetto. Il cuginetto e quindi ci sta tutta quanta piastrando, quello, quell'altro. Anche ma c'è 2 ore, c'è. Ma ce la c'è tutta tillata. Brava, andava là. Ma che tu ci devi andare? No, me la tifo. Ma che altro? Vabbè. Andava e lui, boh, se la farò qualche cosa, non lo so. Non lo so. Io c'ho una fame da adesso, una giugata di mangiarmi un buco. Ti compri, ti compri. Sì che ti compro, avanti. Sì. Già fido, di sì. Già? Non fido. Allora stiamo durando? Provando, giusto, ho cambiato l'antenna per vedere la situazione. Ma da dove moduli? No, sono qua a via Vittoria passati. Ah, capo. No, già vedo più da questa parte, zona via Baldetta, dai. Capo, in compagnia, non so se ti ascoltano, in compagnia di Rimalonga, di Falchetto, poi mi sa che non c'è nessun altro, almeno che c'è adesso qualche un altro. Avanti. Danielino. Ah, scusa Daniele, c'è anche Daniele in Maramubile, non so se lo ascolti. Buonasera a tutti. Buonasera Claudio, buonasera. Avanti l'amico Media Italia, Massimo Bassino, se ascolti la Nuova Lunga. Pronto. Avanti Via Italia, dai, con la buonasera qua, stazione Falchetto, ciao Claudio. conoscete? Chializio? Chializio lo conosciamo. Ehi, ma Chializio stai dicendo però? Dove sei tu? Via Palmetta? Ehi, io sono qua in zona, Monte Rosello. Gianni da Valdetta. Chializio stai dicendo? Chializio Cano si chiama, di lì del monte. Chializio Cano, non so chi stai dicendo, va. Ma che lui c'è un baracchino là, a la sorella, dove dove sei? Dove volevo a Monte Rosello. Io Monte Rosello Basso, anche l'amico Claudio e Gianni sono via Valdetta. Che sarebbe se non è collegato? E quello non mi sei chiudi, non si chiama. Un consiglio te lo posso dire, non è dire cognomi di persone, capito? Adesso io non so chi sia questo Alessio Caro. Ma se lui entra in radio, non è bello che tu dici il suo cognome. Poi vedi tu. No, ma è lui che si presenta come Alessio Caro, Non posso. La prima volta che lo sento. Graziano, se mi ascolti cambio. K910, già è pulita come radio, già si sento bene. E tu come mi senti lì? Io adesso ti posso dare lo stesso, dai. Va bene, ti ascolto un po' di chiaro, dai. Ma mai da poco, quando mi dispiace, da più di trattamenti separati, li spolvero anche ogni giorno lì, e separati al fumo. Prima uno l'ha buiato, allora la tre me ne rimasto. Questo quello portato e quello che c'è in macchina. Già va bene, grazie, dai, magari non c'è niente, basta fare una visitina al dottore, si mette tutto a posto, dai. Ma lo sai cos'è il fatto? Se mi dà fastidio, più bene la tratti una cosa. È peggio che ti narrassi, mi vengo io se ne tratta proprio da maniera, forse non l'esempio, perché si più bene tratti, controllati, puliti, insegni, e ogni tanto vale un firme. Ma Gio Maria, sentiamo, mi hai detto l'ha sentito un po' stamattina, dai. No, stamattina non l'ho acceso la pensa, sono uscito, sto facendo cosa, non l'ho avuto, l'ho acceso di pomeriggio perché è andato a quello là. Stava andando poi, poi non è più andato. Ha detto, ma chiami, allora ho preso lo smontato, il deviatore e tutto quanto. Dai, ma dica, va, vi dico, è collegato, acceso, così scalda, e domani lo provo, se è andata se lo vedo di controllarlo. Cavolo, ce lo dai, va bene, dai. Ok, dai, va bene così, accetto, dai, dalle una controllina e poi vedrai che tutto si sistema, grazie, dai. Speriamo, ma domani vediamo, sempre di una giugana, perché mi sono già stufato la verità, di stare smonta, rimonta, piazza, rispiazza, modifica, questo è questo. Ma ti adunio, per grazie a voi. Ma grazie a tu! Ma buonasera Graziano e buonasera anche a te Pacchetto. Ma dai, buonasera anche a te Antonio, dai, riprendi con Graziano, dai, che ha problemi con vecchi apparati, dai. Prima uno ha buiato, adesso è collegato, lo sto facendo scaldare, poi domani lo provo, adesso manco ne tocco di fili e filetti. È un gufo. E dimmi. La radio ti piace? Questa che c'è adesso, questa sì. Questo qua è un Intec 550, nuova versione. Cos'è nuovo? Ma questo qua è nuovo nuovo, E non sarà pagato questo? Me lo sono fatto arrivare da fuori. 130 mi pare. Non è molto, quanti canali c'ha? 000. Quanti? 000, 400. Io questo che sto modulando, quello mi è rimasto adesso in casa, e ho 80 solo, e è AM e FM. Già, AM e FM stesso. È bello, microfono originale, ecco, dell'apparecchio. Anche l'ecco incorporato, cioè. Ma non c'è più incorporato, lo posso togliere, escludere, mitigare. Una radio quasi completa, non ha le bande laterali però, ma la cabina è buona. È bello pulito, 130 non l'ha attaccato molto. Mi ricordo un po' di anni di fa, quel portatile 44 anni dell'ALA, l'avevo pagato 120 mi sembra, c'è anche la fattura conservata. Di quel portatile 40 canali, è bellino. È uscito modello nuovo della Intec, che è un portatile bellissimo, c'ha 400 canali, poi c'ha la regolazione dei watt, processore, della modulazione in entrata e in uscita, è veramente un bel apparecchio. Vabbè, io come nuovo avevo comprato quel portatile, poi gli altri li avevo comprati usati, già trattati, cioè questo già andato prima, gli ha dato un bel ricordo, bruvizio. Poi quello lo 2000, quello me l'aveva regalato un autista, un amico mio, quando facevo l'autista. Anche l'altro, il CBC, lo stesso me l'aveva regalato perché stava comprato nuovo. E era nel livello, ho parlato di questi adesso qua c'è lo speaker, è un bel apparecchio, funziona bene, colpi ne prende pochi, e va alla grande, dai. Già si sente la modulazione, che è bello pieno, si sente bello chiaro, pulito. Vabbè, te lo posso sentire senza eco, senza pito. Ecco qua, esclusi. Guarda a vedere, questo è normale. Già, è bella la stessa la musica, cioè la voce, la base della voce. Ma microfono suo della casa, anche perché ho provato a mettere un altro microfono e bisogna abbassare il Mickey Gay perché c'è il processore dentro, è già forte, hai capito? Va bene. Non li modifica nulla, la radiologia l'originale, sta esce bene, è perfetto, ma non gliene fare modifiche. Comincia a fare modifiche, come se fosse di robe, da voi come se ne abbarrasse usi alla giura. Lasciamo così, originale. No, ma questo è originale. No, non l'ho messo, infatti, ho lasciato l'originale della casa proprio. Perché va benissimo così, va. Sì, si può attivare tutto, poi c'è il codice questo qua, per mettere il canale, capito? È bello, va bene proprio, una radio che va bene, il microfono è lungo, è abbastanza lungo, quindi è morbido, no? Non ha problemi, dai. Sì, ma che aspetta dalla modulazione, che è buona, è forte come modulazione, anche lungi. Basta l'originale, non le fare niente, tanto c'è frugetta, è abbastanza chiara, pulita, e liscia la voce. Non ci batte dalla casa, cioè. A lui, dai, da me, è bellino, e io adesso vedo, alla lavate del buccio, la brutta, quando stava la tarra me la vado a pigliare un lupo direttamente, tanto. Dopo c'è la conta. Finali a MOSFET e Mitsubishi di ultima generazione. Ciao. Mi sono indicato di dirtelo. Il microfono è crossfunder, va veramente bene. Finali a MOSFET reggono di più degli altri, hai capito? Lo so. Ma lo sai cos'è? Non posso variare, perché quello sul diastro praticamente io non l'ho mai giocato. Anzi, mi avevo modificato quel microfono da tavola che mi aveva venduto Natalino, era una bomba, tutti così, ultimamente l'hanno modulato. E allora se ne è andato uscire alla giura. Per non fare modifica, se l'avrei modificata questa, la tocca se torna a staccata, che mi rompe un po'. Scappa. Ma non c'è il PAD, ma non te ne sei accorto, no? Hai controllato i comandi, il refrigerante, non è il refrigerante quello lì. Qualcosa. Make a game, dai. No, make a game mi sembra che sia, ora free game. Hai controllato qualcosa, sia qualcosa che urgia, non c'è nulla. Nulla, controllato, sono provato a aprire tutto l'RPG. Nulla, ammazzato tutto, 3-4 volte, a succhettarla, a vedere, la valuta, poi l'ho aperto, si è bruciato, non ho venuto. E l'entra tutto là, tutto solo che non si sente, non sto parlando, è nuovo. Anzi, avevo fatto la modifica con due spezzoni di filo, all'autoparlante esterno, più grande, e si sentiva bene. Ho provato a attaccarlo, è quello, niente. E tu non riceve bruci, però funziona tutto. Perché l'ho collegato, ho acceso l'altro, ho schiacciato la portata e sente, funziona la portata e si sente nell'altro apparato. Il segnale lo dà e tutto, lo riceve solo. Ah, dimenticavo, c'è anche l'outdown, i comandi nel microfono, c'è. Puoi cambiare i canali dal microfono e poi lo puoi anche bloccare per non muoversi. Hai capito? Ah, puoi cambiare canale dal microfono, te l'ho visto, mi sembra, nel depliante avevo comprato uno del genere, un apparato Luigi, nel depliante CQC che avevo preso, l'ultimo che avevo preso era luglio agosto, mi sembra, luglio agosto, perché la rotta non è usciva. Perché andavano in fila, allora l'avevano fatto doppio, ci avevano inserito anche un altro depliante più fine, e non l'ho preso gli altri mesi, e settembre-ottobre non l'ho preso, adesso non lo so, magari c'è quello che ha preso il tumin, quel depliante ciò. No, l'Intec si chiama Intec M550 Power, quello lì è. Oh, va bene qua, c'è un'altra persona, ce l'ha a Sassari, però non ce li ha tutti i canali, hai capito? C'è solo quella differenza. Questo è un pezzo unico, diciamo, non ne ho sentito altri che ce l'abbiano. Comprate i nuovi. Ciao. Zappa, magari se dell'ultima generazione, quello lì, ci sarà il depliante, c'ho io. Salutoni, domani a ben sentito, avanti. Sì, buonasera a tutti, come va? Mi apro rumbita, che certo, Maria. Ciao tu, che tu ci sei, scusate, non ho ascoltato e chi c'era, chiedo scusa, mi ha dormito, comunque buonasera, ben sentiti, grazie, scatta, poi vado a montare tutta la parecchia, ma la sera vai a succiare, invece dal buio, proprio. Ciao Gio Maria, buonasera, che ti dice perché? Dimmi come che non faccio la malattia. Mamma mia, tu. L'ha fatto fasciare tutto l'apparato, L'ha fatto fasciare tutto l'apparato, e invece non è un problema di Gio Maria, ma è un problema di Graziano, capito? Avete fatto spaventare così, Gio Maria. Che hai detto Graziano, Non li posso male per l'aria su Graziano, grazie. È una cazzata magari la ricezione, senz'altro lì. Controlla bene lo spinotto femmina dell'ottoparlante supplementare. Può darci sia incantato il petto all'interno della parete, può darci sia anche da quello, capito? Perché il segnale in FM esce più forte, mentre in AM è di meno. Capito? Potrebbe essere anche una cosa del genere, ma potrebbe essere anche un'altra cosa, capito? Ma è una cazzata, è la ricezione. I finali non possono essere, se no non avessi nemmeno ricevuto, capito? Ehi, io sono stato, ho volato anche l'attacco del Mike, quello che avevamo salvato insieme. e non va giusta. L'ho aperto, adesso l'ho venuta, ho denunciato, tutti ho dato tutto quello che non riceve, adesso lo giudicate, quello che stavo usando ieri. Che prima si è sentito bene, poi si è sentito un po' male, allora l'ho andata, l'ho suspendita, l'ho lasciata attaccata, adesso con il riscaldo al mediato, tutti i vestiti saranno... Come dire di come entrata l'antenna, le scarichi, cosa adesso? No, non può essere quello, non potrebbe essere anche il prima che si è chiuso, potrebbe essere anche il prima che si è chiuso della ricezione, ma ha fatto del riscaldamento, non c'entra e ne cesce, non c'entra e cesce, capito? Dopo se sente a pomponi faglielo vedere e vedrà che lo prova subito, senz'altro sarà una cazzata. Va bene, non vorremmo polizzare il canale, vai a tu. Antonio, non riprende, vai Parquet. No, lascia un po' di bianco, non ci sa mai, c'è qualcuno che va a entrare, vai Parquet. Magari già poi sarà qualche cazzata, senz'altro, e niente. Se lo faccia controllare, dai, da bomboni a qualche uno. Niente, basta, tutto qua. E basta, basta da cosa, Vantino, e Taverni, via San Francesco, Luna Manzano, Vazzi, e ve lo fa vedere, potresti pure vedendo, devo forse subito lì, abbalarti in attenza, oppure alla pomponio, devi in testa, ti ammare la permettita, e magari vanno se no beh, capito grazie, sarà una cazzata tu. Io non so potuto uscire perché sai che a 50 letto per cui non siamo usciti, non possiamo uscire perché non posso muovere, capito grazie? Va bene signore, dai io vi saluto perché devo fare delle commissioni, bianco per me, saluto a Pacchetto, a Graziano e anche a te Gio Maria, ciao. Ok, ciao, anche ci sentiamo, buon proseguimento, vai Graziano. Ciao, anche un buon proseguimento in serata, alle prossimine, basta, ok. Salutone Antonio, dai, tutte le prossimine, dai, buon affittate se concide, dai, le prendi giovani. Vabbè, non ti è arrivato il Ciapperica a te, non è arrivato. No, ancora non vai. Ah, ecco, allora lo hai ordinato, così è. Ad oggi. Vabbè. Piano piano, non pigliate mai breccia. Ah, fino al tempo. Ok, allora grazie. Se fa fare degli apparecchi. Ma cos'è? A macchina di lui non funziona, così è. Allora, qui siamo tutti tutti se lo cagola già attaccato. Che dato, vabbè non me ne affossiamo da di video, sta bene funzionava, ma al di sopra l'altra non si può funzionare, e invece a sé mi è giusturato non si intende niente. Attacco video, accorciamo da poi incendiamare, avano si intende nulla brutti. Stasera l'hanno tirato tutto, deviatore, rosa, soltanto è. L'hai pigliato, me l'hai portato, me l'hai attaccato con l'antenna diretta sul maestro e niente da fare, no, accendo, funziona tutto, funziona, ho acceso l'altro, schiaccio la portante, funziona la portante, si sente nell'altro apparato, lo smuove nell'altro apparato, quando fa video, si muove, gli dà, non riceve solo. E boh, senz'altro, a poco mi si dice, no, ma infatti, di uscire, ieri sera usciva bene, solo che magari non c'è la ricezione, ma è una cazzata, senz'altro sarà una cazzata. O si è chiuso, quello che ti ho detto, il trimmer, oppure si è incantato il jack femmina che c'è all'interno dell'autoparlante supplementare, può essere anche, quelle due cose potrebbe essere. Altre cose boh, non penso io, che a uscire esce, il segnale arriva allo svizzere, così che potrebbe essere da quelle due cose, capito? Solo lì potrebbe essere. il microfono con l'entrata per sentire la voce non c'entra niente. No, guarda che secondo come metti filo non si sente, non c'è la recessione, capito? Poi se fosse stato causato da quello, il microfono avrebbe senz'altro innescato o avrebbe fatto qualche difetto, invece no, non deve essere al microfono, capito? Sì, provato a vedere un po' dunque della pezza. Sotto quel microfono mi sembra che ci abbia il regolatore dell'omulo, no? Ma dal microfono con l'entrata di sentire la voce, io di sentire a te parlando con il microfono, non potrà non usare un microfono, lo sto parlando, non c'entra niente. E l'entrata che non entrano dall'antenna le onde, lo usano la pulizia, non si sente, perché il resto funziona tutto. Il microfono, io se schiaccio il pulsante, non smette, si muove, forse io lo tengo premuto, accendo l'altro barattino, senti anche la portante fischia, no, nell'altro palazzino. Comunque loro il microfono non va nulla, se non era il microfono non avrebbe smesso la portante, capito? Sì, ma c'è un filo il microfono che secondo come lo attacchi non ti crea la recessione pure, capito? Perlomeno quel microfono lo conosco e per cui non so più, ma può essere quelle due cose che ti ho detto io, perlomeno io la penso così. Dopo può darsi pure c'è qualche altra cosa che magari non so, ecco. Per me sono quelle due cose, per me o il trimmer o quel jack, la femmina, quello che c'è dietro il baracchino, sì, che distacca e attacca le lamelle della spinocchio della cuffia, capito? Che potrebbe essere anche da quello. Bianco, giovane della batteria. Bene. Ok. E poi non lo so io, l'ha aperto, non si vede usare, ripresiate il budget completo, ho smontato anche quel deviatore che mi ha virato su, a dire che vi ha dato qualcosa di diverente, invece non vi usare i video, sono tutto là, appunto, saggiati, i punti sono tutti, se non l'avete ricordato nessuno, c'è la giura di bumbo da fa. Prima vedo la già attaccata in un gambito, dove lo pensavo, già va, attacco vedere, fa vedere da così che andiamo a male, e poi tutti l'ho accesa a vedere. E all'inizio si sentiva, poi non si è sentito più niente neanche con questo. Boh, cosa vi posso dire, grazie? Non lo so, io ripeto, ma tu apri l'apparecchio, perché c'è lo stilotto femmina delle cuffie, ecco, ci sono due fili attaccati, controlla uno di quelle lamelle dove sono attaccati i fili, i due fili, se fa contatto, se non fa contatto, capito? Prova a entrare lo spinotto dell'ottofraccio supplementare toccandolo, o il polo caldo e il polo freddo, a vedere un po' se è difetta, potrebbe essere anche da quello, potrebbe essere anche da trimmer, capito? Posso fare altro? No, non lo so, non è che mi intenda di queste cose, però su per giù immagino che potrebbero essere quelle cose, secondo me, ecco, poi potrebbe essere anche qualche altra cosa che io non so, capito? Adesso state attaccato, se posso smontare il piede da questo e attaccarlo a quello, e proprio se funziona. Aspetta. E la portante avanti. E dimmi, dai. Ok. E la radio bassa rimane, grazie, il segnale è fortissimo a fondo scala, ma la radio è bassa. in FM, sì. Bella chiara, grazie, io ti sento bene, e tu non mi senti, è così. Ehi, la M non mi senti, ma secondo me c'è il trim mollato, chiuso lì, che è lento e si è chiuso, forse è per quello che non mi senti, Io ho pensato a al trimmer che si è mollato e si è chiuso, capito? E siccome l'FM è più forte l'uscita, capito? E invece l'FM è più bassa, magari non lo senti anche per quello, boh, perlomeno, forse è veramente così, E questo trimmer dove? Ma dove? Dove è l'entrata dello spinotto? Ma certo, boh. Non lo so, io, il trimmer ce ne sono parecchi, bisogna a sapere qual è il trimmer suo, capito? Ah, perché io l'ho aperto, no, a vedere dentro, ma dici, ci vedrà che mi sta per cosa bruciato, non ho nulla bruciato. Se è stato bruciato, no, perfetto, non ti avrei sentito neanche in FM, invece in FM ti sento, in AM non ti sento, però funziona tutto. Deve essere anche fatto dello squecce, capito? Deve essere anche quello dello squecce, boh, ma è sé che è un ribus, quando capisce sì, un ribus, uno che non lo sa, che ha tanti battiti, sì, però poi si è mai retto, no? Non ha mai toccato cosa del genere, per cui non è compito mio, capito, grazie. Beh, quello sì, è logico. Ma è un gioco, sta facendo qualche cosa, ma anche credendo che io sono i consigli del programma, dell'antenna, e l'ho venuta qua tutto. Sì, ma ci sono tante cose, dall'antenna arriva al circuito, e potrebbe essere anche un dio, potrebbe essere un trimmer, potrebbe essere un filo chi tocca o non tocca, potrebbe essere una stradatura non fatta bene, potrebbe essere anche lo squecce, che siccome in FM e tu si abbassi lo squecce, lo chiudi poco a poco e senti più bene, se lo metti a manetta non senti niente, se vedi solo il segnale alto e basta, la radio non la senti. Non lo so, prima la vita non sa proprio, invece sì, vabbè, però hanno provato in FM, ma cosa che provano a essere quello là così? Ciao, buongiorno, bella, neanche qua, quasi faccio il buono con l'Inter, il buono sta vincendo su Bologna, anche quando la mia fa pressione.